Si tratta assolutamente di una fake news, fra l'altro non è niente di nuovo, perché già sotto Pasqua, prima dell'assegnazione ufficiale, diciamo, era circolata questa voce attraverso anche altri titoli di giornali che, appunto, come al solito titolavano: XM24 se ne va, è assegnata nuova sede di XM24. Ovviamente noi ribadiamo ancora sempre con forza che si tratta chiaramente di una fake news e di una notizia strumentale che non è assolutamente vera. Lo stabile di Via Fioravanti 12, che è appunto un'ex banca, sarà affidato a un progetto che si chiama Bancarotta SRL, spazio relativamente liberato, che non è XM24. XM24 ne fa parte, ma neanche come capofila. È parte di un gruppo di associazioni, di singoli e di gruppi informali che è molto tempo che si vede e che si è appunto organizzata per evitare di andare a partecipare a questo bando, appunto questo bando di assegnazione di questo spazio, appunto andando in qualche maniera a smontare una logica competitiva che voleva appunto ogni gruppo contro l'altro. Per cui non è XM24 che prende e si sposta e ha vinto uno spazio, è un gruppo di associazioni, se vuoi te le posso anche ripetere, che sono l'Associazione Culturale Città Aperta, l'Associazione Xenia, l'Assemblea della Casa della Salute Navile, Concibò, Sopra i Ponti, lo Sportello Sociale della Bolognina, 20 Pietre, XM24, l'Almi, e ce ne sono anche molte altre interessate, molte singolarità che si stanno avvicinando a questo percorso. Un percorso che appunto nasce anche per denunciare la mancanza di spazi in città e la vergogna che è stata appunto il laboratorio spazi per arrivare all'affidamento di questi spazi, che sono, ripetiamo per l'ennesima volta, piccoli, insufficienti, praticamente delle cantine. L'abbiamo detto in tutti i modi, non è XM che si sposta, XM non si muove di un passo dal 24. Molto chiaro, diciamo, era un po' meno chiaro nella narrazione di oggi, che probabilmente è anche parte un po' dell'intento, diciamo, di quello che voi denunciate come un metodo che si usa in questi meccanismi di partecipazione, in teoria, del Comune di Bologna. Sì. Assolutamente, noi denunciamo anche questo metodo, appunto, che si fa bello appunto di una finta partecipazione della società civile, della collettività, e appunto viene preso ad esempio, a modello in Europa, come modello virtuoso di partecipazione dal basso, quando poi in realtà appunto di nuovo mette a disposizione spazi minuscoli che assolutamente non rispondono alle esigenze di spazi nella città. In più, oltretutto, non riconosce gli spazi che già ci sono. Questo è l'altro punto fondamentale. Perché andare a cercare altri spazi quando poi vuoi cacciare gli spazi che già esistono, già fanno socialità, già fanno cultura? Qual è il senso di questa azione? È chiaramente un senso strumentale. Anche perché, diciamo, c'è dell'ironia anche nel fatto che la motivazione iniziale, quella frase che era stata pronunciata nel spiegare perché XM se ne sarebbe dovuto andare, ovvero non è più compatibile con la realtà del quartiere, comunque verrebbe meno, diciamo, nel caso dell'assegnazione di uno spazio a 12 civici di distanza. Ma sì, assolutamente, tra l'altro non è neanche a 12 civici, perché attaccato c'è un problema chiaramente nella numerazione della strada, per cui insomma è assolutamente ironico, ma è chiaro, è strumentale, noi questo non l'abbiamo mai pensato in altra maniera. E quindi a questo punto, diciamo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Da una parte, che cosa farà XM, lo dicevi già prima, resterà lì, e dall'altra anche se immagino ne dobbiate ancora discutere, comunque non so se lo avevate già previsto, come diciamo gruppo di associazioni di realtà cittadine come Bancarotta SRL, cosa farete con l'assegnazione di questo spazio? Allora, intanto come XM ad oggi e nei prossimi tempi è e sarà più vivo che mai. Sabato scorso abbiamo avuto la serata di Bologna Elettrica, che è stata una serata estremamente partecipata e bellissima, e nei prossimi tempi ne avremo tantissime. Già abbiamo il cinema il mercoledì sera con una rassegna fichissima, il 24, 25 e 26 maggio ci sarà il festival Olé oltre l'editoria, quindi noi continuiamo con le nostre iniziative, continuiamo a esistere, a resistere come sempre con la nostra vita quotidiana dentro lo spazio e fuori dallo spazio. In più rilanciamo per un'iniziativa del 29 giugno, che presto avrete notizie, ne saprete, che vuole avere il respiro più grande, e adesso piano piano arriveranno notizie. Quindi invitiamo sempre tutte e tutti a passare a XM, a venire a vedere qual è la realtà che vive e qual è la comunità che vive intorno a quello spazio. Come bancarotta i prossimi passaggi saranno chiaramente complessi, ma quello che si vuole rilanciare è sempre appunto denunciare questo elemento di contraddizione, di buffonata del comune, di questa finta partecipazione, e quindi continuare a montare appunto una campagna sulla necessità di spazi in città, e poi appunto vedremo nei prossimi tempi cosa succederà per proprio le pratiche burocratiche dell'assegnazione. Perfetto, un'ultima domanda, un commento, visto che se ne parlava diciamo anche nella risposta che voi avete ripubblicato oggi sulla questione dell'assegnazione degli spazi, si parlava anche di quella che è stata l'ultima destinazione d'uso indicata per lo spazio di XM24, ovvero quella di un co-housing. Anche questa voi la denunciate come una, diciamo, una strategia neanche troppo ben mascherata. Sì, chiaramente, è chiaramente una strategia, perché il co-housing l'abbiamo esposto chiaramente nei vari comunicati che abbiamo portato e in alcune iniziative che ci sono state nell'ultimo periodo. Non risponde minimamente all'emergenza abitativa di questa città. Primo, perché va a piazzare uno spazio che viene attraversato normalmente da tantissime persone, da migliaia di persone, 10 nuclei familiari. Quindi già questo si vede come non è un intervento d'emergenza. In più, di nuovo, con la classica tecnica appunto di riprendere le esperienze dal basso e rigirarle come gli pare, diciamo, prende un'esperienza che è quella del co-housing, che è assolutamente interessante e che appunto risponde a una necessità di vita diversa da quella che abbiamo in questa società in questo momento, e la rigida a proprio comodo, chiaramente per farsi bello e dire, il comune per farsi bello e dire ah, ma noi così andiamo a rispondere a questa emergenza, quando in realtà ovviamente non risponde a nessuna emergenza mettere quei 10 nuclei familiari lì, non è quello che risponde all'emergenza, non è quello, soprattutto quando questa città è piena di spazi vuoti che non vengono utilizzati in chiave abitativa. O di spazi, quindi, diciamo privati, come sì, può essere quello dell'ex Telecom con lo studio. Assolutamente, assolutamente. Appunto, quando si tratta poi di fare, appunto, è tutto un progetto chiaramente che è fatto per metterci studenti ricchi nello student hotel, no? Quindi qua di che edilizia sociale stiamo parlando? Che necessità c'è di sgomberare XM per metterci 10 nuclei familiari?